Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buongiorno, benvenuti. Luca Tremolada al microfono. Sono in compagnia di Guido Romeo. Buongiorno anche a te. Buongiorno. Allora, oggi trattiamo di un tema di cui non trattiamo molto se non nelle news. Ci occupiamo di spazio. Guido Romeo ha scritto moltissimo sulle pagine di Nova 24 e anche sulle pagine del Sole 24 Ore. Troppo buono, lo so. E oggi in particolare parliamo di una missione precisa, insomma. Di una simulazione, in realtà, di una simulazione molto speciale perché è la più lunga mai fatta, è Mars 500. Il nome quindi è di una merendina commerciale, ma non c'entrerà assolutamente nulla. Lo sapevo che ti faceva arrabbiare con questa stupidaggine. Comunque, noi, prima di entrare nel merito di Mars 500, ascoltiamo le news. Twitter punta sugli smartphone, scommettendo sulla telefonia mobile con applicazioni ufficiali per BlackBerry e iPhone. La decisione ha però sollevato perplessità tra gli sviluppatori indipendenti, che temono una riduzione delle opportunità per lanciare iniziative imprenditoriali legate alla piattaforma di microblog. La discussione ha preso il via su internet, ma è atteso un confronto tra due giorni al Festival di Twitter. È in vendita Palm. L'azienda di telefonia mobile cerca un acquirente. Ha chiesto la consulenza di una banca d'affari e di un fondo di venture capital per concludere l'operazione. Secondo l'agenzia Bloomberg, il colosso taiwanese HTC sarebbe interessato a un accordo. Un virus di laboratorio aiuta l'energia pulita. I ricercatori dell'MIT hanno sviluppato un vettore biologico in grado di separare l'idrogeno dall'ossigeno nell'acqua. È un processo simile alla fotosintesi delle piante. Il virus agisce su dimensioni di un miliardesimo di metro per attivare catalizzatori progettati per scindere i legami molecolari. L'obiettivo è di costruire fonti sostenibili per la produzione di idrogeno a partire dall'energia solare. Allora, noi siamo in collegamento con Simonetta Di Pippo, direttore dei voli abitati dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, voi dov'è che state esattamente? Io sono in Olanda, a Noordwijk, che è un paesino tra L'Aia e Amsterdam, dove c'è il centro tecnologico dell'Agenzia Spaziale Europea e dove ci sono le 300 persone che lavorano nel direttorato dei voli abitati, e poi ho un ufficio a Parigi dove c'è invece il quartier generale dell'ESA. Insomma, di quanti italiani, cioè com'è la rappresentanza italiana all'ESA da quelle parti? Ma la rappresentanza è buona e anche leggermente superiore a quella che dovrebbe essere rispetto alla nostra percentuale di partecipazione, e devo dire anche la qualità tecnica degli italiani e delle italiane qui all'ESA è abbastanza buona e ben riconosciuta. Ci facciamo valere. Assolutamente. Allora, adesso andiamo a raccontare un po' questo esperimento, ma prima ascoltiamo la scheda di Guido Romeo che, insomma, anticipa un po' quello di cui andremo a discutere. Diciassette mesi chiusi in una finta navetta spaziale alle porte di Mosca. Non è un reality, ma Mars 500, la più lunga e complessa simulazione mai tentata di un volo abitato fino a Marte e ritorno. Tra i 6 astronauti che prenderanno parte alla missione organizzata dall'Agenzia Spaziale Europea, c'è anche un italiano, Diego Urbina, nato in Colombia 26 anni fa, ma laureato in ingegneria al Politecnico di Torino. La missione simulerà le condizioni di isolamento e lavoro che gli equipaggi dovranno affrontare nel lunghissimo viaggio di andata e ritorno verso il pianeta rosso, ma anche le operazioni che dovranno completare sulla sua superficie. Il volo vero e proprio non avverrà prima del 2035, ma ingegneri, psicologi e astronauti sono al lavoro per la più grande missione spaziale mai tentata dopo lo sbarco sulla Luna. In una missione così lunga, che in realtà potrebbe durare anche più di un anno e mezzo, l'avversario da battere è soprattutto psicologico. Restare isolati e mantenere la motivazione per arrivare in fondo è la parte più dura. Rieccoci in studio, Guido Romeo, insomma, sembra un po' un reality questa missione. Ma sì, è stato battezzato infatti un grande fratello dello spazio. In realtà il grande fratello ha copiato questo tipo di simulazioni perché e proprio il primo Grande Fratello si ispirò a queste prove di isolamento fatte per i sommergibilisti e in un certo senso lo spazio è un grande, l'astronave, le navi spaziali sono dei grandi sommergibili, insomma. Noi ricordiamo che tra pochi giorni ci sarà questo esperimento, che dura quanto, ricordiamolo, perché non è poco. Dura 520 giorni, ma forse questa è la cosa migliore che può spiegare Simonetta Di Pippo, ed è appunto perché 520 giorni, cioè andare vuol dire andare su Marte, ritorno, bastano 520 giorni di Pippo? No, in realtà non sono sufficienti. Quello che simuliamo con questa seconda fase dell'esperimento, perché c'è già stata una prima fase fatta in collaborazione con l'istituto a Mosca, che si occupa appunto di problemi biomedici, in particolare anche in supporto alle attività spaziali, abbiamo avuto appunto una simulazione di 105 giorni lo scorso anno, che ci ha dato dei primi risultati, e adesso andiamo a questa fase che è la vera simulazione del viaggio verso Marte. Ora, per capire perché 520 giorni, dobbiamo riferirci a quella che sarebbe una missione verso Marte nelle condizioni attuali. Noi abbiamo bisogno di circa 7-8 mesi con l'attuale tecnologia, con la tecnologia che abbiamo a livello mondiale, per arrivare dalla Terra a Marte. Poi occorrerebbe tenere l'equipaggio sulla superficie di Marte per circa un altro anno e mezzo, perché bisogna aspettare che il pianeta Marte sia in una posizione giusta, fatemi dire così, rispetto alla Terra, per poter tornare indietro. E poi occorrono altri 7-8 mesi per poter tornare sulla Luna, quindi un viaggio sulla Terra. Quindi un viaggio che in totale durerebbe circa 2 anni e mezzo. Quello che noi abbiamo simulato, che simuleremo con questa missione a Terra in realtà, ma si tratta in realtà tra virgolette di una missione, simuliamo completamente il volo dalla Terra a Marte, quindi i primi 7-8 mesi, poi c'è una simulazione di la discesa dell'equipaggio, di una parte dell'equipaggio, perché una parte rimane non scende sulla superficie per circa 30 giorni, e poi risimuliamo la parte del viaggio di ritorno, quindi in totale 520 giorni. Che è un sacco di tempo. Assolutamente tanto. Tra l'altro stavamo facendo un calcolo io e Guido Romeo, cioè che è praticamente molto meno del Grande Fratello attuale, che sono tra l'altro andati fuori di testa, pur stando in una casa normale. No, è molto di più del Grande Fratello come durata. Il Grande Fratello è molto di meno, eppure sono andati anche fuori di testa. Cioè sarà... Ma perché non la trasmettete in diretta? No, beh, innanzitutto... No, è una stupidata. Dunque, ci sono vari aspetti da considerare. Innanzitutto abbiamo questa volta un equipaggio... che in linea di principio doveva essere di 4 russi e 2 europei, come nella prima fase. In realtà i russi hanno fatto un accordo, stanno per stringere un accordo con i cinesi, per cui avremo 3 russi, un cinese e 2 europei. Ma questo è un po' una specie di Yalta delle esplorazioni spaziali, cioè la composizione per nazionalità, è un po' una cartina tornasole per capire la potenza economica in campo delle nazioni? No, diciamo che il discorso è abbastanza più articolato, nel senso che innanzitutto tutte le attività di esplorazione, soprattutto quando è di volo umano, vengono fatte necessariamente in collaborazione. Per esempio la Stazione Spaziale Internazionale, che è attualmente in orbita sulle nostre teste a circa 400 km appunto sopra la Terra, è in realtà gestita da 5 nazioni, cioè Giappone, Russia, Europa, Stati Uniti e Canada. E addirittura gli equipaggi a bordo sono spesso composti da rappresentanti di queste 5 organizzazioni, di questi 5 continenti in qualche modo. Ora, se però poi andiamo all'esplorazione del sistema solare con uomini, abbiamo già un accordo tra 14 agenzie, quindi estendendo anche a Cina, India, Corea del Sud, Australia, eccetera. Perché questo? Perché una missione d'esplorazione umana prevede così tante tecnologie da dover sviluppare e prevede anche, come dire, una quantità di denaro elevata, per cui non si può pensare di fare una missione umana di esplorazione del sistema solare passando prima per la Luna e poi andando a Marte senza avere la collaborazione di tutti su scala globale. Quindi, è più una questione di avere il maggior numero di potenze in campo, cioè di avere il maggior consenso, è più politica la questione che economica. È politica, economica, tecnica, e poi in realtà la scienza è internazionale per definizione. Certo. E quindi diciamo è un po' quasi naturale, e tra l'altro la Stazione Spaziale Internazionale al momento può essere quasi considerata un esempio di come si può collaborare tutti i principali paesi del mondo per una grande impresa, e certo con qualche difficoltà soprattutto all'inizio per differenze culturali, perché bisogna imparare a capire quali sono anche i meccanismi burocratici, politici, amministrativi dei vari paesi, ma una volta superato questo primo scoglio, che ha richiesto anche devo dire un po' di tempo, in realtà la collaborazione è molto forte, e anzi le differenze e le diversità poi portano anche del valore aggiunto sia alla dialettica che proprio ai progetti in sé. Quindi avere anche in questo caso un equipaggio così articolato può essere sicuramente utile. È un bene. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremolada ancora al microfono con Guido Romeo. Siamo in collegamento con Simonetta Di Pippo, direttore dei voli abitati dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Stiamo raccontando e cercando un po' di capire qualche cosa di più sulla missione Mars 500. Di Pippo, volevo tornare su una cosa che ha accennato, faceva l'elenco appunto di questo grande equipaggio internazionale che avete selezionato, ma abbiamo visto che gli europei, diciamo i primi selezionati per Mars 500 sono 6, però non partiranno tutti. Volevo capire che come ci si qualifica poi per diventare veramente un astronauta, e cioè c'è un po' un processo di nomination, per tornare all'analogia col Grande Fratello, insomma. Chi è che viene, come dire, nominato e defenestrato, invece chi resta a bordo e va veramente a fare la simulazione della missione? Ma i fattori che intervengono sono diversi. Innanzitutto c'è uno screening a livello medico fatto da questa equipe russa con il nostro supporto, che è veramente molto, molto dettagliato. E dopo aver scrutinato anche tutti gli aspetti, diciamo, fisici, anche l'aspetto psicologico è stato molto, molto ben trattato, diciamo, perché chiaramente 520 giorni non sono pochi, e quindi l'aspetto psicologico andava analizzato in dettaglio. Ma mi tolgo la curiosità, quanto prendono? Pochissimo, una cifra che oscilla tra i 55 e i 75 mila euro per tutto il periodo, cioè per 2 anni. Quindi un quarto di quello che vince, che ha vinto il Grande Fratello. E sì, stanno più tempo. Vabbè, scusi, no, l'analogia è sciocca. Il discorso è questo, che i ragazzi sono veramente motivati, tutti dicono la stessa cosa, cioè loro in questo modo qui, alcuni di loro magari avrebbero voluto fare gli astronauti, ma per una serie di circostanze, soprattutto magari per ragioni fisiche, non sono riusciti ad entrare, perché la selezione dal punto di vista anche, diciamo, medico, per quanto riguarda il percorso, diciamo, da astronauti, è anche molto molto forte. Quindi chiaramente molti sono stati esclusi anche per queste ragioni qui, tenendo conto che noi abbiamo selezionato i nuovi 6 astronauti lo scorso anno partendo da 8.400 domande. Di Pippo, ecco, invece, che cos'è che non si può simulare? Perché in fondo questi staranno in una, diciamo, in una finta nave spaziale, molto verosimile, ma finta, a Baikonur in Russia. Che cos'è che invece dovrà fronteggiare il primo equipaggio che partirà, speriamo, chi lo sa, nel 2030-2035? Ma guardi, questa simulazione è ancora più difficile di un vero viaggio su Marte o verso Marte. Perché? Perché in realtà questi ragazzi vivranno una simulazione completa, quindi rimarranno chiusi in questo ambiente circoscritto per 520 giorni, ben sapendo che rimangono sulla Terra. quindi non c'è, come dire, il valore aggiunto della vera conquista di Marte. Non c'è il drive, la pressione a dire dobbiamo farcela, siamo veramente in missione. C'è il rischio di sentirsi inutile e dire insomma chi me lo fa fare. Sì, psicologicamente questa è una cosa quindi, da poco. Psicologicamente questo aspetto che magari... Loro non entreranno nella storia, ecco, entreranno nella storia dell'Agenzia Spaziale Europea, però non in quella scritta nella sui libri. Nella grande storia, insomma. Esatto, e questa cosa qui per loro... è ancora più difficile perché l'astronauta che viene selezionato e sa che nel giro di pochi anni andrà sulla Stazione Spaziale Internazionale ha un obiettivo, perché il problema degli astronauti è che il loro obiettivo è quello di volare e se chiaramente, diciamo, loro magari, questi ragazzi, avevano alcuni di loro anche magari fatto domanda per essere selezionati come astronauti e per una serie di ragioni, soprattutto mediche, non hanno superato i vari scogli, questo chiaramente li mette anche psicologicamente in una situazione, non dico difficile, ma sicuramente più complessa. Quindi, secondo me qualche neuroscienziato, qualche psicologo avrà gli occhi puntati su questo esperimento, potrebbe tirarne fuori materiale. I psicologi anche... sarà una, diciamo, un piatto appetitoso per gli psicologi. Guardi, sì. Noi abbiamo ancora un minuto, io volevo una sua risposta rapida. Guido Romeo diceva 2035 come 2030-2035 la possibile data per Marte. Voi ci credete o state un po' lavorando ancora al buio da questo punto di vista? Allora, se avessimo la convergenza politica e l'interesse a livello internazionale di procedere, tecnologicamente ce la possiamo fare. 2030-2035 è sicuramente una data abbordabile per andare su Marte, sulla Luna è molto più vicino e anche molto più fattibile in tempi rapidi, ma ci vuole la convinzione che a livello mondiale che questa è una strada da seguire, perché la quantità di attività nuove che riusciamo a mettere in piedi, la ricerca anche per migliorare la qualità della vita sulla Terra e le nuove tecnologie che sviluppiamo con questi programmi sono così importanti che prima partiamo meglio è. Un'ultima cosa, per l'uomo della strada, che cosa cambia? La Luna ci ha portato tantissime tecnologie dai DVD ai moon boot, eccetera, ma Marte che cosa potrebbe portarci? Brevissima perché siamo in chiusura. Ci stanno sfumando. Anche solo la simulazione ci porterà tantissime informazioni su come gli organismi reagiscono alle situazioni di stress. Anche solo la simulazione è fondamentale per l'uomo della strada. Grazie di Pippo, Nova Lab 24 torna alle 16:30, un saluto.